GR Europa. Dopo la recessione che ha segnato il 2012, nel primo semestre del 2013 l'economia dell'UE dovrebbe stabilizzarsi e nella seconda metà dell'anno il PIL dovrebbe tornare gradualmente a crescere per poi guadagnare velocità nel 2014, poiché la domanda interna è ancora contratta a causa di una serie di fattori tipici del periodo che segue una profonda crisi finanziaria. Sarà la domanda esterna il principale motore di crescita di quest'anno. Olli Rehn, vicepresidente, commissario affari economici e monetari dell'euro, della zona euro, ha dichiarato: alla luce della recessione prolungata si deve fare il possibile per superare innanzitutto la crisi dell'occupazione. Dopo Serbia e Grecia è l'Italia il paese del Consiglio d'Europa con il maggior sovraffollamento nelle carceri, dove per ogni 100 posti ci sono 147 detenuti. L'Italia è anche al terzo posto per numero assoluto di detenuti in attesa di giudizio, dopo Ucraina e Turchia. Questi sono alcuni dei dati contenuti nel rapporto del Consiglio d'Europa sulla popolazione carceraria nei 47 Stati membri del Consiglio, fotografata però al settembre 2011. I ribelli hanno attaccato questa mattina all'alba l'aeroporto di Damasco lanciando due razzi, lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana. Uno dei razzi ha colpito un aereo fermo in una delle postazioni, l'altro ha centrato una riserva di cherosene che ha preso fuoco. Questa mattina Radio 24 ha dedicato una puntata al tema della crisi siriana e ci siamo anche uniti ai tanti che chiedono un aiuto per Domenico Quirico, inviato della Stampa, scomparso da oltre 20 giorni in Siria. La crisi siriana, che appare senza soluzione, è nell'agenda da oltre due anni, nell'agenda europea. Tra i curatori del dossier per l'Unione c'è il parlamentare europeo Elmar Brok, eurodeputato tedesco, capo della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, che abbiamo intervistato attraverso la nostra Maeve McMahon. Lo sentiamo. Non penso sia pensabile l'invio di truppe che si troverebbero coinvolte nelle battaglie urbane come quella di Aleppo. Credo invece che si debba lavorare a livello internazionale, soprattutto con la Russia e la Cina, perché entrambe quelle potenze assumono un ruolo più importante nell'azione internazionale. Dobbiamo riuscire a coinvolgere di più la Lega Araba e anche direttamente il Qatar e l'Arabia Saudita, che crediamo siano direttamente coinvolte nel sostegno ad alcuni dei gruppi armati dell'opposizione. Gli impiegati delle istituzioni europee minacciano di scioperare il prossimo 7 maggio per protestare contro i tagli previsti dal budget 2014-2020. Particolarmente spinosa la questione pensione. La richiesta è infatti di fissare un minimo di 67 anni l'età per la pensione dei dipendenti pubblici europei. L'Unione Sindacale di Bruxelles, che è però il maggiore tra i sindacati del pubblico impiego, ha inviato però i propri aderenti a soprassedere. Abbiamo buoni stipendi e possiamo anche accettare qualche sacrificio, ha detto in una nota. Bene, con questo abbiamo concluso. Naturalmente l'appuntamento con l'Europa ritorna lunedì prossimo. Un ottimo fine settimana a tutti voi. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.